questo è l'ultimo ghiaccio. Vieni con me in eterno all'inferno. Andiamo dove non si dorme, dove nessuno porta l'uniforme, dove c'è andato chi ti ha fatto il culo. Senza futuro, senza un futuro. Il mio ultimo ghiaccio. Questo è il mio ultimo viaggio. Aspiro, inspiro tra la folla. Lei mi sta attaccata perché ho la ciola. Mi segue per ore e non si scolla. Vuole entrare nel rolla rolla. Continua a dirmi io e te per sempre. Vuole entrare nel mio mondo verde. Per scoprire che così è apparente. Astinente, deludente. Ma ti prende, non puoi farci niente. Ma ti prende, non puoi farci niente. Ma ti prende, non puoi farci niente. Ti frulla la mente e non puoi farci niente. Morirò per questa sativa. A 20 anni senza polmoni respira. Io vivo la vita per quel che mi dà. Concludo il mio viaggio, mica lo lascio a metà. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio. Hai sentito, fra? Posso fare di peggio, ascolta. Cresciuto ascoltando rap, frequentando metallari. Ora travolgo entrambi tipo lo tsunami. Non credo nel bicchiere, io seguo il mio morto. Pensa che qualcuno mi ha dato per morto. Dedicata a chi ancora si commuove. Questa generazione game over. Tutti attenti che non è un gioco. Lancia fiamme, vengo a darti fuoco. Vengo a darti fuoco e riparto da zero. Sei così che parto, la mia testa è partita. C'è da un sacco ma la vita mi segna a puntare in alto. Punto in alto. Contro tutti, contro tutti, sono contro tutti. Contro tutti, contro tutti, contro tutti, sono contro tutti. Nah, l'abbiamo perso. Eccolo, lo vedo. Mayday, Mayday, ci sta attaccando, Mayday. Eccolo, è sotto tiro. Perfetto amico, questo è il tuo ultimo viaggio. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio, yeah. Questo è l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, il tuo ultimo viaggio. Tanto lo fanno tutti. Tanto lo fanno tutti.